Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, un nuovo appuntamento con gli incontri con i grandi protagonisti del cinema, della musica, della cultura. La nostra voce in scena di oggi è quella di un cantante nato a Milano nel 1972. Ottiene il primo contratto discografico nel 94 e approda subito a Sanremo Giovani, poi al Festival di Sanremo. Le sue prime canzoni sono subito grandissimi successi in Italia, ma anche in Sud America. La sua carriera prosegue tra picchi di grande successo e momenti vicini all'oblio, ma lui prosegue senza sosta. Dopo anni di eccessi e turbolenze mette la testa a posto anche nella vita privata. Finora ha pubblicato 9 album e 3 raccolte e anche un'autobiografia. Questa sera sarà per l'unica data estiva allo stadio Brianteo di Monza con i suoi fan per festeggiare il suo recente 40° compleanno. Stiamo parlando di Gianluca Grignani. È stata un po' la scusa dei 40 anni e poi era capitata la possibilità di fare questo concerto al Brianteo. Volevano essere un po' il creare un precedente, non avevo mai fatto una cosa del genere e volevo iniziare a fare qualcosa di diverso anche dal punto di vista degli spazi. Quindi abbiamo creato questo concerto diviso in due parti, la parte elettrica, la parte energica più rock, e ci sarà una parte acustica centrale per poi riprendere di nuovo nella parte elettrica. E nella parte acustica centrale ci saranno questi interventi della Corona Evans, che sono attori, ballerini, quasi come un po' come le Siete del Soleil, sono quelli che poi hanno aperto anche l'American Cup, e che con il fuoco, l'aria, i costumi, eccetera, i trampoli, fanno delle scenografie dietro l'unplugged, cioè dietro la parte acustica, quindi le luci, saranno giochi di luci, di effetti speciali, e devo dire che ho fatto le prove proprio ieri e il risultato è ottimo. Come mai questa decisione di ampliare l'esperienza del live? Io ho sempre cercato di fare qualcosa di diverso nei live, ma non perché volessi in qualche modo attirare più persone. È ovvio che poi il live è quello che il risultato viene quando viene tanta gente, quindi ovviamente serve anche quello. Ma perché distinto, ho sempre avuto questo tipo di attitudine, l'ho fatto con la quadrifonia, l'ho fatto col biglietto dentro nel disco, l'ho fatto in mille maniere. Questa è una maniera forse molto azzardata, molto futuristica. Tra l'altro loro hanno sempre lavorato con la musica classica, è la prima volta che lo fanno su un palco rock. E il binomio è in particolare, molto particolare. Poi si abbina molto bene con i miei testi, con la mia musica. Ha un po' qualcosa di floydiano dietro, c'è qualcosa. Però ovviamente ha una natura diversa. Ecco. Questo giro tondo d'anime, chi si volta è perso e resta qua. Lo so per certo, amico, mi son voltato anch'io, e per raggiungerti ho dovuto correre. Ma più mi guardo in giro e vedo che c'è un mondo che va avanti anche se tu non ci sei più, se tu non ci sei più. 40 anni, tu l'hai sentita come una tappa oppure no? Penso che sia un passaggio, un momento mio. Come quello, tutti prima o poi ci dobbiamo passare i 40 anni, quindi credo che sia un momento, una cosa che uno vive, magari non la vive più fisicamente perché glielo ricordano, che con la testa, cioè io non mi sento ancora un quarantenne, nel senso di quarantenne, nel senso cioè di un uomo maturo. Sono maturato, ma non a sufficienza probabilmente per sentirmi una persona così adulta, ecco. Nonostante tu sia un super papà, allora sei ancora un ragazzino, questo è bello. Mi considero più attento, più sicuro di quello che voglio, meno incline ad essere diciamo manipolato nelle mie decisioni, mentre prima era più semplice utilizzarmi, ecco. Sono più in questo senso più sicuro di me, più attento in questo senso. Però non mi sento un quarantenne, faccio fatica, ecco, a considerarmi, non ce la faccio. Quando mi guardo allo specchio non mi vedo così. Come si risorge mille volte in una carriera che ha avuto alti e bassi? Ma quando più che altro non si pensa di cadere mai. La sensazione che uno ha è la cosa principale, fondamentale. Io posso averli avuti questi alti e bassi, ma fondamentalmente è un po' come quello che scrivono sopra Wimbledon prima di entrare, dove a grande adesso non mi ricordo esattamente, ma il concetto è: non devi pensare di vincere né di perdere, devi solo credere in te stesso. Il concetto è molto quello. E quindi in realtà uno ha un percorso, ce l'ha nella testa, e se ha qualcosa da dire, tutto avviene intorno a te, a volte nel bene, a volte nel male, però fondamentalmente è quello in cui credi tu, è quello che dove vuoi arrivare. Poi io non sono molto incline al successo, alla fama, questa è una conseguenza. Quello che mi interessa è fare della buona musica, e ogni volta che la faccio, cambiandola, sperimentando, accusando anche a volte dei colpi, proprio per aver fatto delle scelte. Ma quello che mi interessa è quello, è la cosa principale per me, scrivere delle canzoni, avere qualcosa da dire, emozionarmi quando le ascolto dopo 5-6 anni, e tutto quello che mi succede intorno è la conseguenza di ciò. Quindi uno non pensa mai di cadere, pensa di muoversi, ma non, è una sensazione. Non ho più fiducia, non ho più fiducia, ecco cosa c'è. Fiducia, mia cara, la fiducia, dimmi tu cos'è. Cosa pensi quando ascolti le tue prime canzoni? Hai già un sacco di anni di carriera, nonostante appunto abbiamo assodato tu sia ancora un ragazzino. Quando riascolti i tuoi primi successi, che impressione ti fanno? Ti rivedi e ti risenti ancora? Sì, guarda, a proposito, è uscita tra l'altro un'intervista proprio qualche giorno fa, dove sembrerebbe che io che dica che in realtà non mi riconoscono le mie canzoni, invece non è assolutamente vero, sono state prese delle parole mie per fare effetto, le hanno messe insieme in quella maniera lì. In realtà non è assolutamente così. Io certo che La Messa alle Tre Dita l'ho scritta a 20 anni, è una canzone che ha fatto il giro del mondo, essendo un cantautore a 20 anni avevo un certo tipo di linguaggio, a 40 ne ho un altro, sia musicalmente che dal punto di vista proprio della scrittura del testo. Quindi in realtà non è che non mi rivedo, mi riconosco, ma mi riconosco nel ventenne che ero e non nel quarantenne di oggi. È normale, è giusto che sia così. Sono canzoni che mi emozionano per quello che dicono, e a me personalmente sono come delle fotografie, quindi come se mi guardassi adesso in una fotografia di 20 anni fa. Io sono dell'idea che siano canzoni che sono talmente oltre il tempo, sono diventati degli evergreen, che, cioè, per dire, già La Mia Storia Tra le Dita è la composizione che, per dire, a me piace ancora oggi. Su Destinazione Paradiso per me è intoccabile, non riesco neanche a immaginare, cioè quella è una canzone che ancora oggi quando la canto la sento molto addosso. Più La Mia Storia Tra le Dita un po' meno, quella fa come età assolutamente la sento tantissimo, è una canzone infatti che dal vivo il primo treno per Marte la sento moltissimo. La mia storia un po' meno, però, ma per una questione, come ti dicevo, semplicemente perché è una canzone d'amore, le canzoni d'amore, cioè noi mi sono evoluto in maniera diversa. Ti raserò l'aiuola quando ritorni da scuola. Ok, ti voglio bene, ma molla le tue amiche sceme. E questa dichiarazione di amore, di apprezzamento da parte di Vasco Rossi, che addirittura ha usato, insomma, delle espressioni particolarmente significative, ha detto che sei il John Lennon italiano, e non è bello dirlo a qualcuno che ha appena compiuto 40 anni, perché insomma non sarebbe l'età giusta. Perché è morta 40 anni. Tu cosa, però cosa? No, lui io lo ringrazio sempre, questi apprezzamenti, ha scritto delle cose meravigliose, lui sa quanto lo apprezzo e quanto l'ho apprezzato, anche perché è sempre stato un artista fedele a se stesso. È ovvio che sono dichiarazioni talmente forti che io stesso mi fanno paura, no? Sono dei macigni, a volte quando lui dice queste cose, che sono una figata da sentirsi dire, perché l'ego si gonfia, però poi fondamentalmente è anche un peso sostenere quello che dice, quindi a volte mi dà delle palle incandescenti da con cui giocare, che non è facile gestirlo. Concerto speciale sì. Al Brianteo, poi però per sentirti bisognerà varcare il confine a ottobre. Sì, a ottobre finalmente ci sarà questa tournée europea nei più grossi club europei, quindi Barcellona, Londra, Parigi, Bruxelles, e poi dopo andremo in tutto Sud America e farò dei festival in Nord America. Al ritorno, rientro in studio. Lì devo anche ringraziare, ad esempio, La mia storia tra le dita, che oggi, se vai all'estero, è una canzone considerata quasi ai livelli di Volare. È arrivata ad ottenere uno successo che a volte io stesso rimango colpito, perché mi è capitato ancora adesso di prendere un premio internazionale della musica Cuba grazie a quella canzone. L'ho preso per Romantico Rock Show, ma è quella canzone che mi ha fatto conoscere. Oggi ancora oggi, se vai in Sud America, parli di quella canzone, viene vista come è conosciuta qui, però immaginate in tutto il Sud America, in parte del Nord America, in parte dell'Europa. È una canzone che veramente, insomma, mi ha dato tantissimo. Io ho iniziato questo lavoro che avevo 23 anni, quindi molti miei colleghi, molto più illustri di me, hanno ottenuto il successo, tra virgolette, quello di grande pubblico, verso i 30, anche quelli ai quali mi vengo paragonato. A 23 anni, insomma, è ovvio che c'è una distanza tra i miei 40 e i miei 23, se non fosse così vorrebbe dire che sto facendo ancora delle canzoni con lo stampino, e quindi non sto facendo musica, sto facendo il furbo, e non è il mio stile. Ed è tutto per questo appuntamento con Voci in Scena, ci ritroviamo domani alla stessa ora.